Tutti i mezzi di informazione, Radio Popolare compresa, si sono premurati di assicurarci che a Kabul è tornata la musica. Non solo questo, naturalmente, ci hanno anche informato che gli uomini fanno a gara a farsi tagliare la barba, che le donne potranno, volendo, dismettere il burqa, anche se non lo hijab, come assicura da Peshawar Bontasua tale Sayed Ahmed Gailani, il grande vecchio dello schieramento monarchico, visto che lo hijab lascia scoperte le mani, i piedi e la faccia, e sotto non è necessario portare altri indumenti, è già un bel progresso. Le ragazze d'altronde potranno tornare subito a scuola, o meglio potrebbero farlo se in quei mucchi di rovine cui sono attualmente ridotte le città afghane ci fosse una scuola in piedi. Sono tutte buone notizie e speriamo che siano vere. Come speriamo che le agenzie abbiano smesso di riferire di massacri, vendette etniche e fucilazioni nelle strade, come succedeva nei primi giorni dopo l'arrivo dei Mujahideen, perché di massacri, vendette e fucilazioni non se ne verificano più. E non perché qualcuno ha pensato che non era il caso di turbare il pubblico occidentale con queste spiacevolezze. In effetti, per la grande stampa è molto più tranquillizzante insistere sulla musica che fuoriesce gioiosa dalle radiovine dei taxi, sugli aquiloni che i bambini fanno volare sulle macerie e sul fatto che tra le merci offerte in vendita nei bazar ci siano nuovamente i rossetti. Le immagini televisive, a dire il vero, non confermano al 100% le parole che giungono da Kabul. Ci mostrano soprattutto delle masse inquiete di uomini più o meno barbuti e una quantità di camion carichi di militari che scorazzano tra le rovine polverose. La situazione, d'altronde, è tutt'altro che tranquilla. E gli stessi giornali che ci descrivono un Afghanistan liberato e ormai prossimo a uscire dalle tenebre del Medioevo devono ricordare in taglio basso nelle pagine interne che la guerra comunque continua e che continuerà a lungo perché lo scopo degli alleati in fondo non era quello di riportare la modernità in quel paese ma di eliminare il terrorismo internazionale. E da questo punto di vista il lavoro è ancora tutto da fare. I nostri ragazzi, per fare un esempio a caso, non sono ancora partiti da Brindisi. Una situazione per qualche verso imbarazzante, tanto è vero che qualcuno ha proposto di mandare in zona d'operazioni finché si fa in tempo una qualche avanguardia. Magari un contingente di carabinieri che, ancorché non perfettamente informati sulla società afghana e sui suoi problemi, potranno utilmente contribuire a mantenere l'ordine pubblico. Insomma, che volete? C'era tanto bisogno di buone notizie, di poter dire che questa guerra insensata qualche risultato l'aveva prodotto, che per qualche giorno si è preferito mettere tra parentesi persino Bin Laden. Ci sarà tempo per ritrovare i toni bellicosi e spiegarci che burca o non burca siamo tutti al fronte. Per adesso la musica delle radioline di Kabul fa da colonna sonora alle nostre illusioni di pace. Alle nostre, dico, perché dell'ottimismo degli abitanti di quella città credo purtroppo sia lecito dubitare.